vesto di nuovo, di nuovi colori. Lascio il mondo grigio fuori a morire da sé. Fuoco amico, distruggi tutti i vecchi vestiti. Al gusto acre di antitarme, fuoco, pigliali te. E se domani sarà guerra, se domani sarà amore, se domani saremo eterni, o se saremo autodistrutti, oggi mi vesto di nuovo e voglio sorridere a tutti. Perdonerei amico se oggi sono felice, se ho la testa e la valigia piena di sentimenti e di idee. Che mi abbia accolto la saggezza, mi abbia accolto la follia, prendo per buona questa sensazione di leggera libertà. Se domani sarà guerra, se domani sarà amore, se domani saremo eterni, o se saremo autodistrutti, oggi mi vesto di nuovo e voglio sorridere a tutti. Sarà guerra, se domani sarà amore, se domani saremo eterni, o se saremo autodistrutti, oggi mi vesto di nuovo e vi saluto a tutti.